Benvenuti su Blogosfere, distributori del volume del Castor Cinema su Neil Jordan, che in questi giorni sarà a Toronto col suo ultimo film. Non avete ancora avuto ovviamente l'occasione di vederlo, però come potete presentare quest'ultima pellicola? Ma da quello che si sa, la trama è ancora abbastanza segreta, trailer per ora non ne circolano ancora nel momento in cui ne stiamo parlando, per cui da quello che possiamo sapere della trama è la storia di un marinaio irlandese che trova tra le reti della sua barca da pesca una bellissima donna che la figlia crede essere una sirena e che probabilmente è una sirena, sabe? Tranquillo. Qua parti pure tu, tanto poi taglio, no. Manda tanto. Allora comincio da Come vuoi, sì, no. E allora, da quello che possiamo sapere del film, che al momento non è ancora un trailer, la trama è ancora abbastanza segreta, il film parla di un pescatore irlandese interpretato da Colin Farrell che trova tra le reti della sua barca da pesca una donna che forse è una sirena. È un film che sembra un po' una favola, come molti film di Neil Jordan, che hanno questa sorta di sottotraccia, alle volte proprio sotto, alle volte invece molto più in superficie, della fiaba, della magia, dell'irrazionale che irrompe in un contesto razionale. E ci sarà l'attore feticcio di Neil Jordan, che è Steven Rea, nella parte di un prete. E questo lo abbiamo visto nelle foto, in alcune foto di scena pubblicate dal sito del Toronto Film Festival. E poi, insomma, si sa poco altro. Colin Farrell, questa modella polacca di cui sinceramente non saprei pronunciare il nome. E in realtà adesso Neil Jordan è già al lavoro su un altro film tratto da un romanzo di Neil Gaiman, che credo non sia ancora stato pubblicato in Italia. Ed anche lì è un film che è una storia che fonde magia, mistero e fiaba, perché poi il film in fondo è il libro di Neil Gaiman, è un libro per bambini, per cui, come dire, territori molto congeniali a Jordan, dopo che l'ultimo film era questo dramma urbano interpretato da Jodie Foster, Il buio nell'anima, in cui però anche lì si potevano intravedere certi elementi fiabeschi, quasi magici, nelle vicende della protagonista. L'abbiamo sempre trovato, è sempre stato, diciamo, abbastanza sottovalutato dalla critica e da alcuni anche non ritenuto nemmeno un autore. Invece c'è una forte coesione sia tematica che formale all'interno della sua opera. Siamo rimasti, quello che colpisce appunto di Neil Jordan è soprattutto questo tema della favola che appunto scorre sotto traccia tutti i suoi film, in alcuni in modo più esplicito, in altri in maniera più suggerita, appunto meno esplicita, alle volte diventa quasi una citazione anche all'interno dei suoi film, basti ricordare appunto Breakfast on Pluto rispetto a The Crying Game. E la presenza appunto di questo regno che scorre parallelo a quello reale, questi mondi che sono perennemente in lotta fra loro, l'inconciliabilità di questi mondi e che nel momento di maggior nel momento in cui sembrano potersi diciamo di poter coincidere rivelano tutta la loro così la loro diversità. Questo è un tema molto forte all'interno della poetica giordaniana, così come il tema della conquista di una felicità che non è mai una felicità appunto per cui si parte ma poi si trova qualcos'altro, ecco, è sempre una consolazione per i personaggi di Jordan. È un regista che è difficilmente incasellabile nelle varie categorie del cinema degli anni 80, 90 e 2000, che bene o male è quello che lui ha frequentato esordendo all'inizio degli anni 80. Lui già è allievo di John Boorman, per cui è allievo di un regista anticonvenzionale per eccellenza, di un regista che appunto non si può assolutamente definire parte di nessuna scuola e di nessuna, insomma, di nessun movimento, no? Per cui lui, come dire, rielabora questa lezione di John Boorman e crea un cinema fortemente personale, soprattutto all'interno di un mondo come quello del cinema irlandese, inglese, britannico degli anni Ottanta, che ci dava appunto registi come Ken Loach, come Stephen Frears, registi che personalmente io e anche Caterina amiamo molto, ma che vanno comunque in una direzione molto più realistica, in una direzione sociale. Erano gli anni della Thatcher, per cui, come dire, si facevano film che cercavano di denunciare una determinata situazione politica. Poi la tradizione realistica in Gran Bretagna e in quei paesi è fortemente radicata. Jim Sheridan, che è un altro regista irlandese, fa film costantemente su temi, insomma, importanti: il terrorismo, le colpe dei padri che ricadono sui figli, eccetera, ma sempre in una direzione realistica. Lui trascende sempre queste cose in modo, appunto, sempre sull'orlo del fantastico, del fiabesco. Un esempio, il primo film, Angel, che è proprio la trama, in realtà dovrebbe essere un gangster movie, e subito il film rivela la natura, appunto, natura differente, no, del film, perché parte appunto come e lo è effettivamente un gangster movie, in cui però la trama non è assolutamente importante, diventa quasi un pretesto, una scusa, anzi è molto lineare, molto semplice, diventa una scusa per raccontare qualcos'altro, appunto la natura di questi personaggi che chiusi all'interno della loro appunto di una difficoltà rispetto alla collettività, rispetto a quello che è la loro identità. Quindi è sempre un problema di una ricerca di un'identità che cozza con quello che la collettività chiede loro. E questo appunto, insomma, si evince quasi subito anche da questo primo film, che diventa in fondo proprio l'esempio più lampante, ecco. C'è un titolo che vi sentireste di consigliare a qualcuno che non conosce per nulla? Per cominciare, okay. Come dire, per approcciarsi, esatto. Quindi un film più che il più bello, il più caratteristico, sì, quello, diciamo, che lo rappresenta meglio, quello. Ma io direi forse Mona Lisa è forse quello che unisce tutte le linee del cinema di Jordan. Mona Lisa e Breakfast on Pluto, per dire, magari uno più vecchio, uno più nuovo. Per me forse sono quelli che uniscono, ma non sono necessariamente i più belli, per questo, sì, certo. Nel senso, se poi dovessi dire i miei preferiti, magari sono altri, però ecco, Mona Lisa e Breakfast on Pluto per me sono quelli che forse uniscono le varie linee del suo cinema, convergono in modo proprio più forte in quei due film. Sì, certo. No, sono d'accordo, anche se appunto effettivamente ognuno di noi ha, insomma, il film che ha prediletto, però soprattutto Mona Lisa, io direi, è proprio Mona Lisa, poi il film che torna segno, forse anche più volte nel libro, nel senso che abbiamo citato anche molto spesso parlando poi dei film successivi, perché è un film proprio seminale in questo senso, nel senso che è il terzo film dopo Angel, dopo In compagnia dei lupi. Forse lui, come dire, unisce quello che aveva fatto con Angel a quello che aveva fatto In compagnia dei lupi, che sono due film molto belli, ma forse ancora ancora incompleti in un certo senso, ancora acerbi, e veramente raggiunge con Mona Lisa la prima grande opera della sua carriera e la maturazione artistica, e che secondo noi, come dire, non ha più un'ispirazione che non lo ha più abbandonato, perché poi alla fine è un regista che rimane qualitativamente molto alto nel corso degli anni, magari con degli alti e dei bassi, però, come dire, non è di quel regista che dici i suoi primi film erano meglio degli ultimi, i suoi ultimi film sono meglio dei primi. C'è magari il film più riuscito e il meno riuscito, ma l'ispirazione non mi sembra mai mancare. Ma Mona Lisa, ad esempio, è un film esemplificativo anche dal punto di vista della citazione letteraria, nel senso che in Mona Lisa c'è quel gioco con la letteratura, il narratore, forse per la prima volta più esplicito, con cui Neil Jordan si rapporta lungo tutta la sua carriera, raggiungendo il massimo dei livelli, sia in Un amore forse due, e soprattutto in Fine di una storia. Qui c'è tutto il gioco con appunto il romanzo, il narratore. Tra l'altro, non dimentichiamo che Neil Jordan nasce come romanziere, per cui lui inizia proprio così, continua tuttora a scrivere, tant'è che il suo ultimo libro del 2005, romanzi, è partito appunto come tutti i romanzieri, da piccoli racconti, per poi scrivere, insomma, romanzi, e spesso nei suoi film, che sono molto letterari, si riscontrano appunto le influenze letterarie e viceversa. Lui è appunto forse più interessato al personaggio che alla realtà sociale che lo circonda, anche perché poi la realtà, che poi si tratta di realtà o di realtà, perché insomma un giorno che lo circonda è più sfumata, è un luogo, è una zona più misteriosa in un certo senso, e non che i personaggi di per sé non siano misteriosi, certo i loro comportamenti non lo siano, però come dire l'attenzione è proprio focalizzata più sul personaggio rispetto al contesto e rispetto anche alle volte alle dinamiche stesse del racconto. Si potrebbe dire che lui è soprattutto interessato non tanto alla realtà quanto alle conseguenze che la realtà ha sul personaggio. Per cui è come se lui gettasse questi personaggi in una situazione per poi vedere che fine fanno, no? E qui quell'aspetto anche demiurgico del ruolo di Neil Jordan, di vedere questi personaggi che vengono beffati dal destino, che tentano di manipolare il destino, che non ci riescono, e nel momento in cui non ci riescono vengono talvolta appunto miracolati, il concetto anche di miracolo nell'opera di Jordan è molto forte, ritornando al discorso delle tematiche, proprio quando meno se l'aspettano, per cui anche un concetto di destino quasi come Dio, che va a coincidere con il concetto di Dio, molto forte. Hollywood penso che sia stato per lui una grande possibilità, nel senso di poter fare rispetto alle idee, poi Neil Jordan è uno che ha sempre portato avanti più progetti insieme, per cui è stata la possibilità di poter dare corpo alle molte idee, secondo me, che poteva avere un regista di questo tipo, e anche che potevano essere anche molto costose da mettere, diciamo, a cui dare forma. E, però Neil Jordan spesso, come succede per registi insomma di questo tipo, è andato incontro spesso con l'incontro con Hollywood non è stato così facile, sceneggiature cambiate, come nel caso di High Spirits, questo è l'esempio più portante in questo senso. High Spirits, che poi è stato, si può dire, un tra virgolette fallimento, proprio perché non è diventato né quello che forse Hollywood ambiva a far diventare, e sicuramente non certo quello che si aspettava il regista, appunto, che ha scritto una sceneggiatura e gli è stata cambiata, e che ha cambiato la natura proprio del film, che doveva essere una favola dark con degli aspetti che sono stati poi trascurati, ed effettivamente è diventata poi, noi la definiamo una commedia della Hollywood fracassona, no? Mentre invece l'altro aspetto di Hollywood è stato La moglie del soldato, che ha ricevuto il premio Oscar, nel senso che è stato un film che gli ha permesso di poi effettivamente diventare, di poter fare dei film in America, perché insomma fino a quel momento non era stato... Paradossalmente il suo film forse più indipendente, Siamo un amore forse due, perché La moglie del soldato è un film costruito raccattando budget qua e là, perché lui veniva da tre fallimenti consecutivi, che sono appunto i due film con budget hollywoodiani, High Spirits e Non siamo angeli, più Un amore forse due, The Miracle, che era una piccola produzione irlandese ma che sostanzialmente non ha visto nessuno, per cui lui fa molta fatica a trovare i soldi per fare il film, e poi quello è un film iper indipendente, profondamente irlandese, che poi è forse il suo film più noto. Ancora oggi nei trailer dei film più recenti di Neil Jordan si specifica sempre il regista della moglie del soldato in Intervista col vampiro, no? E forse proprio è questa, come dire, già questo ci dice della doppia natura. La moglie del soldato, che è un film che ha avuto grande successo anche a Hollywood, ma che, come dire, non è stato fatto con i soldi di Hollywood, non è stato fatto, comunque è diventato un successo grazie all'intelligenza della Miramax, all'intelligenza anche proprio della pubblicità e del marketing, questa cosa del segreto del protagonista, un film con un segreto che non dovete rivelare ai vostri amici, eccetera. Allora la gente andava a vederlo per vedere questo famoso colpo di scena del film, eccetera, che alla fine forse il film lo sminuisce, il fatto di essere il film con uno dei colpi di scena più famosi della storia del cinema. E l'altro è Intervista col vampiro, che è ovviamente invece il grande film hollywoodiano, con magari la sceneggiatura nemmeno di Neil Jordan, poi è una sceneggiatura che in realtà lui ha ampiamente rimaneggiato, anche se l'editor non è accreditato. Però per rispondere alla tua domanda, appunto, il fatto, Neil Jordan è proprio uno che può permettersi oggi di pensare a grandi produzioni hollywoodiane o a piccole produzioni indipendenti irlandesi nel momento in cui decide di farne una piuttosto che l'altra. L'ultimo film con Jodie Foster è un film che lui non ha avuto fatica a farsi dare, era un film che anche quello nasceva da un'altra sceneggiatura e veniva dopo una serie di prodotti abortiti che probabilmente lo avevano anche frustrato in un certo senso, il grande film sui Borgia che lui ha inseguito per anni, per cui aveva raccolto un budget virtuale di non so più quanti dollari e altri progetti che non sono andati in porto. Alla fine, come dire, lui non ha problemi a farsi comunque aprire le porte di Hollywood per fare anche magari il prodotto più di cassetto, il prodotto per tirare un momento il fiato, è un mezzo, diciamo, come questo film con Jodie Foster, ma che per questo non vuol dire che sia un film meno giordaniano di altri, anzi. E allo stesso tempo tornare poi subito dopo in Irlanda e fare questo piccolo film che uscirà per Toronto con, per carità, con un divo come Colin Farrell, però comunque è una produzione veramente più limitata, eccetera. Oppure di fare dei film in Irlanda come vuole lui, ma con, potendo fruire di grandi budget hollywoodiani come nel caso di Breakfast on Pluto o dello stesso The Butcher Boy, che poi non ha avuto granché distribuzione soprattutto in Italia, però è un film fatto con capitali americani in Irlanda, per cui, come dire, questo dopo il grande successo appunto della moglie del soldato, perché prima soldato, come diceva appunto Matteo, aveva collezionato tutta una serie di fiaschi che effettivamente insomma gli avevano reso, penso che gli avessero fatto pensare anche di insomma gli avessero fatto interrogare sulla. Sì, perché poi voglio dire, non è appunto, da un lato può sembrarlo questo sorta di passaggi da Hollywood all'Irlanda, eccetera, ma in realtà è poter pensare a 360 gradi con i capitali che lui in questo momento decide di investire. Alla fine dall'intervista intervista col vampiro in poi i suoi film sono film comunque tutti con abbastanza dei larghi budget in questo senso. Ultima cosa più sul vostro lavoro. Come avete lavorato questo progetto? Nel suo caso forse non è stato complicatissimo trovare il materiale, i film in sé. No, in generale, il materiale bibliografico, nel senso che in Italia c'è pochissimo, ci siamo basati su materiale estero, quasi tutto. Mi siete divisi anche le parti? No, abbiamo lavorato insieme guardando i film insieme, a parte che quello era un lavoro che avevamo già in parte fatto, perché non abbiamo appunto deciso a tavolino di scriverlo, siamo stati fortunati nel senso che non c'era ancora Castoro, abbiamo proposto questa cosa, per cui noi venivamo già da una conoscenza abbastanza buona del regista. Dopodiché ci siamo effettivamente messi a lavorare comunque in coppia, abbiamo guardato i film, ne discutevamo, facevamo appunto brainstorming, come si dice. Però è un lavoro fatto insieme, dopodiché abbiamo anche scritto a turno seduti davanti al computer. Da una parte questa cosa qui ha allungato i tempi, da una parte li ha accorciati, nel senso che comunque le cose, cioè avevamo la certezza che alla fine di una discussione insomma le cose che eravamo riusciti insomma a tirare fuori erano cose diciamo di cui eravamo sicuri, perché quantomeno anche soltanto quando esprimi un punto di vista, se sei da solo, insomma se sei in coppia, è molto più difficile farlo accettare da un altro che magari la vede come te però non proprio così, per cui... Sì, ci sono poi ovviamente, come dire, dei film che magari io amo di più, lei meno, o lei di o più, o parti meno, in cui abbiamo agito diversamente, o parti comunque in cui, voglio dire, ci sono dei capitoli che magari sono più miei, dei capitoli che sono più suoi, e quindi noi leggendoli andiamo, lo sappiamo, però poi parti addirittura. Però poi alla fine è un lavoro proprio frutto, come dire, di due menti e di quattro mani alla tastiera. Cioè veramente un lavoro fatto in due, in tutto e per tutto, senza dividersi le cose, ma veramente ogni parola l'abbiamo scritta in due. Poi appunto, anzi, litigavamo anche sulle parole da scrivere, no, questa è troppo vecchia, non va bene. No, ma poi alle volte, voglio dire, certi capitoli sono stati più difficili di altri, sicuramente. Sì. Non c'era una proporzione, diciamo che alle volte facevamo dei programmi perché avevamo una scadenza che insomma, abbiamo rispettato quasi con regolarità, quasi, diciamo. Però effettivamente c'è stato un momento che eravamo molto stanchi perché stavamo seguendo, ovviamente lavoriamo entrambi, per cui arrivavamo magari, scrivevamo di sera oppure comunque in giorni che in cui sapevamo che ci saremmo messi lì, però avevamo giorni contati di vacanza, magari questo soprattutto sotto Natale è successo, ma anche dopo, in cui effettivamente passavamo degli interi pomeriggi che pure avendo calcolato quel tempo lì magari non andavamo avanti perché uno di due era stanco, l'altro non aveva voglia, insomma. Però questo è uno dei vantaggi di fare in due, perché alla fine in due, sapendo che hai quel tempo lì, cerchi di spronarti a vicenda. Magari se sei da solo dici magari scrivo stasera, scrivo domani, almeno a me capita così, sì, ma penso anche a lei, e rimandi perché tanto non hai nessuno a cui rendere conto. In due ti tieni, insomma, ti tieni il posto a vicenda. Poi, giusto per raccontare un aneddoto rispetto a come si scrive in due, non potendo essere sempre d'accordo, al 90% per fortuna noi lo siamo stati, però in alcuni casi non siamo d'accordo. C'è un film di Neil Jordan, Triplo Gioco, su cui noi la pensiamo completamente in modo completamente diverso sul finale, nel senso che a lei sembra un finale più negativo, a me sembra un finale più positivo. Allora abbiamo detto, inseriamo tutte e due le chiavi di lettura, no? Possiamo dire, visto che alla fine, come dire, non è un finale poi così risolto, a me dà un'impressione più positiva, a lei un'impressione più pessimista, ma voglio dire, possiamo benissimo metterle tutte e due. Però poi ci siamo interrogati e abbiamo detto, se mettiamo prima quello positivo e poi chiudiamo il capitolo dicendo però forse è negativo, diamo, come dire, l'impressione che noi crediamo più a quello negativo, e se no è viceversa. Allora ce la siamo giocata banalmente a testa o croce e abbiamo deciso di dire, poi non mi ricordo chi di due ha vinto, comunque abbiamo deciso poi appunto di seguire l'ordine della descrizione di questi due aspetti, di questa doppiezza del finale, semplicemente basandoci su testa o croce. Ma al di là di questo, beh, insomma, aneddoti ce ne sarebbero, però diciamo che potrebbe scadere la qualità dell'intervista. No, poi, come dire, poi la scrittura di un castoro, per chi ha studiato cinema come abbiamo fatto noi, per cui che di castori ne ha letti, la formula del castoro è più o meno quella, è sempre più o meno quella classica, se no non poche eccezioni. No, ci siamo attenuti. Già conosci la struttura e, voglio dire, meno male sai già cosa stai andando a fare, perché comunque il castoro è un qualcosa di fortemente definito, con una sua forte identità. È un libro appunto che ha la sua forte identità. Nel contratto stesso che abbiamo firmato c'era scritto capitoli divisi per film, eccetera, le dichiarazioni del regista all'inizio, per cui infatti ha il, diciamo, formato classico, per cui dichiarazioni iniziali, film per film, anzi prima appunto introduzione, film per film, poi insomma un Breakfast on Pluto in copertina, una scelta vostra? O? No. Però okay, siamo molto felici perché no, la copertina ci piace molto. È molto bella, eravamo preoccupate perché ci siamo già scannate appunto a questo proposito, no, mettiamo questa, mettiamo l'altra, giochiamo testa o croce, eccetera, eccetera, ci hanno risolto il problema.